il vino di terroir è quindi sempre un vino che è prodotto sempre in piccole quantità, in poche migliaia di bottiglie, perché naturalmente quanto più la produzione è alta vuol dire che si vanno a interessare altri territori, quindi zone più vaste, zone più aree nelle quali manca naturalmente l'omogeneità dell'ambiente, manca l'omogeneità del suolo, del clima, delle esposizioni. Quindi capite che per fare effettivamente un vino di grande qualità si ha bisogno in qualche modo di un'area circoscritta, di un'area omogenea che possa in qualche modo avere le medesime caratteristiche ambientali. Quindi proprio questo elemento è quello che appunto ci fa produrre tante diverse varietà, ma con tanti diversi nomi, diverse etichette. Quindi diffidate dei vini prodotti in grande quantità, perché appunto vuol dire che sono vini ottenuti da uve molto diverse, che vengono da zone diverse, che poi vengono assemblate in una cantina, ma che hanno naturalmente ormai perso il loro stretto legame con il territorio dal quale dovrebbero nascere. Il Pinot Nero, quindi, proprio per questa ragione, proprio perché cresce su questi terreni anche così magri, ha un'intensità colorante molto molto scarsa. Lui è un vitigno che ha, come dire, un suo squilibrio naturale. Le uve di Pinot Nero hanno una grande quantità di polifenoli, ma si differenziano in quantitativi molto, molto, molto diversi. Ha una grande quantità di tannini, ma pochissimi antociani, cioè ha poco colore e tanta tannicità. Solitamente questi due elementi sono abbastanza simili, pari, all'interno di delle bucce di uva. In questo caso invece ci troviamo questo squilibrio molto molto netto tra gli antociani, pochi, e i tannini, che invece sono tanti. Quindi abbiamo sempre un colore molto molto molto chiaro, un rubino bello carico di toni anche un pochettino granati, che ci danno un colore molto caldo, ma molto molto trasparente, cioè noi vediamo tranquillamente la luce che passa, proprio perché ha un'intensità colorante molto molto molto debole. Ma tutta la sua ricchezza sta appunto in questi profumi straordinari, perché come dire, si riescono ad accumulare queste sensazioni di frutta così fresca e così fragrante, con questi timbri anche un pochettino selvatici, un pochettino vegetali. Di cosa sa praticamente un Pinot Nero? Un Pinot Nero è un insieme di elementi molto comuni, con qualche elemento che riesce a, come dire, sconvolgere l'assetto gustativo, perché ha, voi sentite questi profumi di ciliegia, di prugna matura, di un frutto appena raccolto, molto molto fresco, che dà quindi una sensazione appena appena zuccherina, una sensazione quindi fruttata un po' legata anche a un concetto di uva di frutto appena raccolto, quindi che ha mantenuto un po' vivo, un po' vivace, questa sua impronta appena appena acidula, che dà quindi una sensazione appunto della frutta appena raccolta dall'albero, che ha quindi queste note così mature, ma ancora un po' vegetali. E difatti l'elemento successivo che si arriva al naso è questo tocco decisamente vegetale, questo tocco che a volte può persino sfiorare un pochettino la nota di cavolo, la nota di foglia di cavolo appena scottata, che butta fuori questa sensazione appena così insolita, strana, difficile da trovare in altri vini. E poi queste note di tabacco molto dolci, molto morbide, ed una speziatura che tende un po' a ricordare la vaniglia, la cannella, delle sensazioni tutte piuttosto, piuttosto dolci, molto morbide. Quindi quando noi lo sentiamo al naso sentiamo appunto come dire, questi profumi molto, molto freschi, molto leggeri, hanno questa sorta di elemento molto, molto morbido, molto avvolgente. Non è un vino penetrante, non è un vino che è aggressivo, è tutto fatto di piccole cose, di cose molto, molto leggere, molto, molto volatili, no? Bisogna in qualche modo riuscire a cogliere, a prenderle, a catturarle. Da tutti questi elementi così volatili, invece sentiamo che in bocca arriva una sensazione gustativa fortissima. Questi profumi di frutto che prima al profumo sembravano così proprio difficili da prendere, da catturare, invece in bocca ce li troviamo estremamente dolci, maturi, belli sodi, belli consistenti. Quasi una sensazione, come dire, masticabile, tanto è ricco, tanto è dolce la sensazione gustativa, la nota fruttata. E poi vi è, come dire, questa sorta di elemento che crea sulla bocca questa sorta di piccola asperità, di piccoli elementi appena appena graffianti, che danno una sensazione molto, molto, molto solida. E quella parte di tannino che anima molto la sensazione gustativa e che dà quindi un'impressione di volume. In bocca il vino non è soltanto un elemento liquido che tende a scorrere via velocemente dalla bocca, ma si aggrappa alle pareti della bocca e della lingua, lasciando in qualche modo segnata la sensazione tattile, come se appunto sulle pareti della bocca si animassero continuamente delle sensazioni piuttosto vive, piuttosto vivace, che appunto solleticano la sensazione, le pareti della bocca. Queste sensazioni tendono proprio a, come dire, fissare maggiormente il gusto, e quindi proprio il tannino, come dire, un fissatore di sapore, quello che in qualche modo ce lo fa sentire più a lungo, ci permette quindi di avere una persistenza gustativa più lunga, più accentuata. L'idea quindi di avere un vino fatto con questi elementi così apparentemente scontrosi creano poi invece in bocca una sensazione gustativa estremamente elegante, fine, molto molto misurata, perché appunto la bocca si rimane appena appena, come dire, toccata da questa sensazione tattile, la parte fruttata si evolve molto bene con delle sensazioni dolci che poi piano piano svaniscono delicatamente, lasciandoci in bocca una sensazione fresca, molto fragrante, molto molto piacevole. Il tutto con estrema misura, estrema delicatezza. La magia proprio del Pinot Nero e del Pinot Nero di Mazzon sta appunto in quello, di riuscire in qualche modo a evidenziare tutti questi elementi con grande complessità e soprattutto mantenendoli tutti entro limiti molto molto molto uguali, quindi molto equilibrati. Una sensazione quindi che nasce da questo ambiente, da questo territorio così ricco, che è capace appunto di evidenziare tutti gli altri elementi. In altre zone, in altri terreni, dove forse questo equilibrio viene a rompersi, ecco che arrivano magari dei vini con note di confettura, quindi magari ambienti troppo caldi che tendono a dare delle sensazioni troppo dolci, troppo mature, oppure degli ambienti un pochettino umidi dove magari invece la tannicità prende il sopravvento e quindi diventano dei vini un po' ruvidi, un pochettino rustici. Il terroir è appunto questo, il perfetto equilibrio tra tutti i vari elementi, tra tutti i vari componenti, che permettono quindi a un vino di esprimersi con ampiezza, con elementi molto, molto, molto eleganti, molto equilibrati, e che danno quindi delle sensazioni molto piacevoli, molto fini e molto eleganti al gusto. E questo è appunto l'elemento dominante, l'elemento vincente di Mazzon, la caratteristica principale appunto che rende unico il Pinot Nero di queste terre, di quest'area, perché appunto così straordinari sono gli elementi che ben si equilibrano poi all'interno del vino che abbiamo nel bicchiere. Questo naturalmente è, da come ve l'ho raccontata io, un elemento che potremmo dire di tipo teorico. nel senso che mancherebbe la controprova, mancherebbe appunto l'elemento per che prova quanto vi sto dicendo adesso. Con i due bicchieri che adesso vi serviremo, ecco che la controprova arriva. Arriva dal fatto che vi serviremo due Barolo del 2005, cioè quindi dell'annata che attualmente viene messa in commercio, ma vengono da due zone diverse. La denominazione di origine Barolo si estende su un territorio abbastanza ampio, sono sei o sette comuni che, dove si può produrre Barolo, più un'altra piccola corona di frazioni di altri comuni. In totale sono 13 comuni, non nella loro totale estensione, ma soltanto in una parte del loro territorio. Ma sostanzialmente, al di là delle suddivisioni, diciamo così, politiche delle amministrazioni, noi abbiamo sostanzialmente quattro grandi aree di produzione di questo vino, che sono praticamente le età geologiche di questa terra che una volta era un fondale marino, poi il mare si è ritirato e queste terre che da fondale sono affiorate, hanno cominciato a essere toccate dal sole, toccate dalle piogge, dal tempo, eccetera eccetera, e in 4-5 milioni di anni naturalmente si sono trasformate, si sono modificate. Tutte questi elementi si stanno compattando, perché naturalmente questo processo è ancora in corso, noi naturalmente non ne avvertiamo i cambiamenti, ma nel corso appunto di questi milioni di anni il terreno si è compattato, questi elementi si stanno praticamente calcificando, si stanno, come appunto se dovessimo immaginare il cemento che pian piano asciugandosi diventa sempre più duro. Ecco, è in corso praticamente questo tipo di trasformazione, che naturalmente è più a buon punto per le terre che sono emerse prima, perché hanno passato più tempo, e sono invece ancora un pochettino allo stato un po' più sabbioso i terreni che sono emersi invece più recentemente. Quindi, a secondo di quanti milioni di anni hanno praticamente passato al di fuori del livello del mare, naturalmente i terreni sono diventati delle cose molto molto diverse gli uni dagli altri. Innanzitutto proprio perché il fondale marino solitamente era formato proprio dalla decomposizione della fauna che abitava questi mari. Noi avremo dei fondali quindi solitamente stratificati, perché in un determinato periodo questi mari sono stati abitati da determinati tipi di pesci e poi nel periodo successivo sono stati abitati da altre specie e così via. Questo perché naturalmente la crosta terrestre si muoveva e quindi il mar Mediterraneo, per esempio, da mare tropicale è diventato un mare di fascia temperata, siamo praticamente a metà strada, quindi abbiamo nei nostri mari hanno vissuto altri pesci rispetto a quelli che ci troviamo attualmente, quindi questa stratificazione appunto del fondale marino ha dato vita poi quindi a dei suoli molto stratificati, quindi abbiamo delle zone dove il calcare si è più cementificato, delle zone di sabbia dove invece questo legame è venuto meno, e quindi abbiamo dei suoli molto molto diversi, dai più vecchi che sono quelli legati alla zona di Serra Lunga d'Alba e poi piano piano spostandoci verso i terreni più giovani che sono quelli di La Morra. Proprio per evidenziare quindi come due terreni diversi messi in due zone diverse, anche se sono a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, danno poi alla fine vini diversi, vini da un carattere diverso. Noi questa sera andiamo a prendere proprio un vino della zona di La Morra, quindi in un terreno giovane, uno di quelli che è emerso più recentemente dal mare, e uno invece di Castiglione Falletto, che è una zona invece dove il mare è arretrato prima e quindi ha lasciato all'aria questi terreni. Sono due suoli quindi molto molto diversi, molto più cementati, molto più compatti nella zona di Castiglione Falletto e invece molto più sabbiosi nella zona di La Morra. Vediamo quindi di capire quali sono gli effetti che danno, che creano appunto questi due suoli diversi su un barolo che è fatto con una unica uva che è il Nebbiolo. Hanno sistemi di vinificazione molto molto simili e quindi andremo quindi a vedere proprio come due ambienti diversi danno vini diversi.